Il gastronauta di Davide Paolini. Bene, oggi parleremo di un argomento credo abbastanza importante sia per la tavola che per la salute, ma soprattutto anche per chi ama così seguire i ritmi della natura. Quello che sta succedendo sicuramente è un qualcosa di rivoluzionario. Che cosa mi riferisco? Ai cibi di stagione, le cosiddette primizie. Forse era normale fino a 50 anni fa seguire questo andamento. Poi nel tempo sempre più gli alimenti sono diventati disponibili tutto l'anno o arrivavano da parti diverse del mondo dove colà erano di stagione oppure sono stati forzati a crescere in ambienti artificiali. Ebbene, questo cosa ha portato? Ha portato dal punto di vista salutistico qualcosa di differenziato rispetto al passato oppure è semplicemente così un fatto romantico quello di pensare alle primizie? Ebbene, andremo proprio a svolgere questo argomento, questo tema così interessante con alcuni addetti ai lavori, dai quali vorremmo scoprire appunto se questo fenomeno nuovo, che è il fenomeno ormai della sparizione delle primizie, della frutta e della verdura tutto l'anno e in ogni stagione, che ha un po' rivoluzionato anche la cucina, se vogliamo, cosa può portare, cosa ha portato e invece cosa non ha portato niente di particolare. Cominciamo questo giro da un agronomo nonché ortista, ovvero sia un personaggio che si è specializzato nel progettare orti di casa, orti di terrazza, quindi per dare così alle persone magari una vicinanza molto più rispetto al passato con la frutta e la verdura. Buongiorno a Stefano Pissi. Buongiorno Davide. Ecco, volevo chiederti se così hai notato appunto dalla tua attività di progettazione, dalla tua attività, che magari l'orto di casa riporta alla temporalità, riporta alle primizie. Ma prima di darti voce voglio ricordare il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, perché penso che magari ci siano dei radioascoltatori che vogliono intervenire sull'argomento. A te, Stefano. Allora, buongiorno a tutti. Come dicevi prima, io come mestiere mi sono scelto questa attività di progettazione e realizzazione di orti. Lo faccio per i privati e per le comunità. E una proprio delle esigenze che i committenti mi richiedono è proprio la stagionalità, oltre alla genuinità dei prodotti che poi loro coltiveranno in casa propria. La stagionalità penso sia un fatto che vada oltre, insomma, alla genuinità, perché proprio per rimanere attaccati a un ritmo naturale. Quindi tu dici un ritmo del nostro corpo, insomma, sicuramente di mangiare certe cose in estate o in inverno è completamente diverso, non ci sono dubbi, perché se uno mangia le albicocche nella stagione delle castagne o i peperoni per Natale, sicuramente c'è qualcosa anche dal punto di vista salutistico forse che porta dei problemi, ma qui io spero che ci sia qualche medico magari che voglia intervenire. Rimani con noi Stefano, ma oggi voglio sentire Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Diretti. Buongiorno Bazzana. Buongiorno. Senta, questo cambiamento epocale ha portato anche dal punto di vista, se vogliamo, dell'attività dei coltivatori, delle variazioni, cioè ad esempio ad abolire le primizie e cercare di produrre tutto l'anno certi tipi di prodotto? Ma è chiaro che l'Italia è un paese particolare, perché da noi c'è sempre stato, diciamo, una certa controtendenza per il fatto di essere un paese che si sviluppa su una latitudine molto vasta, ha diciamo così anche dal punto di vista altitudinale tanti climi diversi, per cui da noi c'è sempre stato appunto questo discorso della primizia, del fatto che potessero venire certi prodotti in anticipo magari dal meridione per poi arrivare dal nord verso il meridione, quindi c'è sempre stata una cultura di quello che poteva essere comunque il fatto di potersi sviluppare in un periodo molto vasto di disponibilità dei prodotti. È chiaro che con la globalizzazione questo fenomeno si è addirittura ribaltato, nel senso che ormai ci arrivano dall'altro emisfero fuori stagione prodotti 12 mesi all'anno, si sono visti poi quelli che sono prodotti esotici, quindi non so, le banane, l'ananas, prodotti che quindi in certa qual parte sono andati anche a sostituire quelli che erano i nostri prodotti, le nostre produzioni, le nostre tradizioni, e oggi il consumatore alle volte dà l'impressione che si stia fossilizzando su alcuni prodotti che magari gli piacciono particolarmente, mi viene da pensare al kiwi, e continuano a consumare kiwi 12 mesi all'anno, dimenticando che c'è una stagionalità e che ci sono altri prodotti altrettanto gustosi e significativi che potrebbero essere consumati. Quindi adesso siamo nel periodo del kiwi italiano, ma arriviamo da 6 mesi di kiwi stranieri che ci siamo mangiati, anche se non era il periodo del kiwi italiano. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Salvatore da Catanzaro. Buongiorno Salvatore. Sì, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Io volevo in qualche modo anche ribadire il concetto sull'altro intervento. È ovvio, io abito, guardi, in una zona del paese dove ancora, grazie a Dio, i ritmi della natura sono quelli normali. Abito al sud e ovviamente le stagioni sono dettate anche dai cambiamenti e quindi dall'uso e il consumo che si fa della verdura, della frutta. Cioè, che le dico, insomma, ancora oggi il vicino di casa che c'è la pianta di melograno mi regala un bel melograno in questo periodo, oppure la zucca spinosa, che non so se lei conosce, ma comunque, insomma, i nostri ritmi sono più normali, diciamo, al sud. E tra l'altro non vedo neanche questi negozi così pieni di frutti, appunto, come diceva prima l'altro radioascoltatore, di frutti esotici in qualche modo. Devo dire però, appunto, come dicevate voi prima, che i danni sulla salute per l'uso così, diciamo, quasi improprio di alcuni prodotti potrebbero provocare sulla salute di ognuno. Direi che però è un problema anche di natura economico. Quando importiamo questi frutti, probabilmente nei mercati mondiali diamo respiro a delle economie un pochino più debole. Lo dico io che già vivo in un'economia più debole, insomma. Bene, bene, grazie. Grazie a Salvatore da Catanzaro, grazie a Stefano Pissi. Ora abbiamo con noi un personaggio che sicuramente sulla stagionalità, sulla difesa dei prodotti è sicuramente uno di quelli che in questi anni ha fatto delle grandi battaglie. Buongiorno Beppe Bigazzi. Davide, buongiorno, felice di sentirti. Beppe, allora, le primizie esistono ancora? Ma non lo so, io non l'ho mai, da buon contadino non l'ho mai adoperate, perché primizie e tardizie sono per gli analfabeti, che spendono tanto per godere poco. Ora, siccome siamo in linea, non posso dire la parola che userei per definirli. Si consuma le cose secondo stagione. Tutti i libri che ho scritto, ora sono qui nelle Langhe a presentare 365 giorni di Buona Tavola, le ricette sono secondo le date del calendario, 1 gennaio, 2 gennaio, 3 gennaio, eccetera. In modo che la stagionalità sia sicura, e lo faccio, interrompimi Davide, però, no, vai. E lo faccio per ricordare alla gente che la stagione è la stagione, ogni stagione ha cose straordinarie. Questa è la stagione incredibile per i cavoli, è la stagione incredibile per i radicchi, è la stagione cavoli e radicchi da condire con l'olio nuovo, cioè il massimo dei massimi dei godimenti. Bene, ora ti interrompo perché sentiamo Michele da Monza, che è un radioascoltatore. Sentiamo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo rendere omaggio a uno dei padri fondatori, diciamo, di una certa educazione alimentare, che è Giorgio Saua, che negli anni 60 fondò la macrobiotica, dove comprando un qualsiasi manuale di Osawa si legge soprattutto il rispetto per il cibo stagionale, cioè consumare i cibi di stagione, soprattutto della propria fascia climatica, evitando tutti quei cibi che arrivano da paesi esotici, fuori stagione e via dicendo, così come l'uso dei integrali, dello zucchero e via dicendo, già negli anni 60. Adesso mi sembra di sentire una sorta di eco che arriva da lontano, ma la macrobiotica già in quegli anni applicava questi principi, per chi li usava chiaramente o li applicava. Bene, grazie Michele. Sentiamo Paola dalla provincia di Varese. Buongiorno Paola. Buongiorno, è fantastico, perché anch'io volevo parlare della macrobiotica, per cui invito veramente anche voi a intervistare degli esperti di macrobiotica, perché adesso si parla tanto di questi argomenti, ma effettivamente Osawa è giapponese, non ha fatto altro che tradurre quella che è una cultura orientale. che collega l'alimentazione alla salute e proprio alla cura, quindi con ogni alimento noi ci curiamo, il nostro corpo accumula sostanze proprio rispetto a quello che mangiamo. Vediamo adesso che c'è il problema degli inquinanti, vediamo il problema dei pesticidi, però se noi mangiassimo verdure e prodotti di stagione, prodotti della nostra zona, tutto questo potrebbe essere ridotto. Bene, grazie Paola. Volevo chiedere a Bigazzi se c'è bisogno di Osawa oppure c'è bisogno di ricorrere... Qui si danno patenti a chi non le merita. Osawa è uno che ha ritirato fuori la macrobiotica. Nel Maine, Stati Uniti, il comune 1921, non è che io abbia consultato, è riportato su una rivista del Corriere della Sera, ora non mi ricordo quale, il manifesto: compra cose locali, cuocile leggermente, devono essere di stagione. 1921. Se poi facciamo un balzo di oltre un millennio e andiamo a Ippocrate, Ippocrate dice: e sia la tua medicina il tuo cibo e il tuo cibo la tua medicina. I contadini, i miei genitori, che erano nati prima del 1921, molto prima, e mangiavano le cose di stagione, e mangiavano le loro cose, sereni e tranquilli, che la terra doveva essere preservata per noi figli. La terra non si rovina come stanno facendo nella pianura padana con il mais irriguo piantato sempre negli stessi terreni. Questo è il discorso. Poi ci si riempie la bocca con la macrobiotica. Questo signore ha fatto delle pubblicazioni anche interessanti, ma ricordando quello che le persone colte già conoscevano, solo a dei poveri ignoranti ha fatto effetto. Bene, grazie Beppe, ti auguro buone langhe e buon tartufo, e a presto. Allora, sentiamo Lorenzo Bazzana di nuovo della Coldiretti per chiedergli quanto hanno inciso e quanto incidono le importazioni di prodotti ortofrutticoli dall'estero sulla nostra agricoltura, quindi sull'andamento della nostra economia agricola. Ma incidono parecchio. Noi dobbiamo considerare che dal punto di vista dell'ortofrutta fresca importiamo circa il 10% di quello che è la nostra produzione. Poi ovviamente incide tanto anche sui prodotti che vengono inscatolati, lavorati. Il nostro è il paese della dieta mediterranea, dobbiamo considerare che alcuni prodotti come ad esempio l'aglio oppure alcuni altri prodotti come i fagioli secchi che poi vengono inscatolati ormai per la stragrande maggior parte vengono dall'estero. Quindi abbiamo bisogno di riscoprire comunque un'economia del territorio che permetta appunto agli italiani di avere ancora a disposizione questi prodotti, che sono prodotti fantastici ma che devono essere della nostra terra. Questa globalizzazione che comporta degli scambi troppo accentuati da migliaia di chilometri di distanza, oltre a determinare problemi per l'inquinamento, determina anche la morte di determinate economie. Quindi bisogna riscoprire questa territorialità dei prodotti agroalimentari. Bene, grazie a Lorenzo Bazzana. Sentiamo Mauro da Firenze. Buongiorno Mauro. Sì, buongiorno. Io volevo sottolineare un aspetto che non è stato trattato per ora nella bellissima trasmissione, che è quello anche del ruolo di decoro urbano del paesaggio che è dell'edificio, sì, della parte antistante all'edificio che viene dagli orti. Certo, lasciando e dando il segno del tempo che trascorre, delle stagioni che avvengano. E mi permetto, io sono toscano, questo era importantissimo anche nel sistema di organizzazione territoriale, che di bellezza della nostra storia non sono solo i dipinti, i quadri, ma anche un territorio ordinato in un certo modo, purtroppo si sta perdendo. L'altro aspetto importante è questo: nel fare gli orti, io sono una persona che lo sta facendo, si stanno perdendo delle sementi che prima venivano tramandate. Ho capito. E che erano importantissime perché si coniugavano perfettamente col microclima, con l'ecosistema del luogo, con la particolarità del terreno, con la quantità di acqua che ci vuole, perché avendo gli orti, penso anche oggi nelle città, certamente bisogna raccogliere l'approvvigionamento, non quella che si usa della conduttura pubblica e del risparmio, ma ci sono delle tipologie di piante che hanno già in loro stesse la capacità di alimentarsi con quello che è il microclima della stagione. Bene, grazie. Grazie Mauro, diamo spazio anche ad altri radioascoltatori. Felice da Brescia, buongiorno Felice. Sì, buongiorno. Nulla, stavo ascoltando la trasmissione e pensavo una cosa. Io ho esperienza, perché è di origine meridionale, di quelli che erano i sapori che avevo quando ero bambino, perché avevo i miei genitori, mio padre, pur facendo un lavoro professionale, era appassionato di campagna, quindi coltivava di tutto, dai pomodori e tutto quanto. Quindi io mi ricordo i sapori di questa roba qui. Adesso noi stiamo parlando di grande distribuzione, cioè di grandi mercati generali, dove i grandi supermercati si servono, cioè anche rispettando la stagionalità non c'è più sapore in nulla. I pomodori di Pachino che vengono giù e hanno tanto di marchio IGP e venduti al tal supermercato non sanno più di nulla, e questo è il vero problema. Cioè sono terreni sfruttati allo spasimo e che non danno più niente, non danno più sapori, non danno più nulla. Mario in Cardona è titolare dell'azienda Gold Green a Santa Croce di Camerina in provincia di Ragusa, produce melanzane invernali, pomodori a grappolo, ciliegino e datterini tutto l'anno. Allora, signor Incardono, ci può dare lei una risposta? Sanno ancora di pomodoro questi fuori stagione oppure no? Sì, buongiorno, intanto volevo salutare tutti i radioascoltatori, complimenti per la trasmissione. Dunque, io volevo rispondere al signore che prima ha parlato e ha detto che il pomodoro non sa più di pomodoro come una volta. Allora, noi nella nostra azienda da 30 anni facciamo questo lavoro. Potrei dare anche delle risposte a questo interrogativo, giustamente. Dunque, come diceva il signore, il pomodoro di Pachino, che è diventato famosissimo, hanno ottenuto l'IGP e tutto quanto, non potendo soddisfare i quantitativi richiesti, non è più solo pomodoro di Pachino, ma lo vanno a comprare in altre parti, dove magari le conducibilità dell'acqua non sono adatte per il pomodoro, che gli dà quella dolcezza che dovrebbe avere. Io potrei parlare della mia melanzana, mi trovo in una zona dove le conducibilità le abbiamo basse, la melanzana mia chi la mangia, posso dire che è dolce, non la cambierebbe più. Come così il pomodoro nelle parti dove c'è la conducibilità dell'acqua più elevate, dove il pomodoro specialmente prende più gusto, invece la melanzana al contrario potrebbe sapere di amaro, potrebbe pizzicare un po' in bocca la lingua, come è capitato spesso. Siccome ormai non si fa attenzione a tutte quelle conducibilità, i momenti di trapianti e tutto, se il pomodoro viene trapiantato come una volta, che cresce piano piano con il sole, quello che diamo, nelle attese che dobbiamo aspettare, siccome ormai si fa pomodoro tutto l'anno, la pianta fa le cose troppo in fretta. Quindi noi sappiamo tutte le cose in fretta, poi alla fine cosa esce fuori. Giustamente, allora, rispettando i periodi di trapianti, di coltivazione, il pomodoro ancora, secondo me, il nostro, ancora sa di pomodoro. Perché io vorrei fare un appello a tutti gli italiani, guardate sempre la provenienza del prodotto. Bene. Guardate sempre, perché noi siamo in Italia i più controllati, i più con le leggi più strette, più tutte le abbiamo noi, diciamo. Bene. Negli attestati ancora si coltiva come si coltiva e poi abbiamo i risultati. La gente non ha più credibilità sui nostri attacchi. Bene, grazie. Grazie a Mario in Cardona. Ora sentiamo un radioascoltatore, Piero dalla provincia di Bari. Buongiorno Piero. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire per quanto riguarda l'uva da tavola. Sì. L'uva da tavola spesse volte dice che non sa più di uva, ma è come una plastica, gli argini sono grossi. Il motivo è anche perché i consumatori acquistano uva in particolar modo solamente con gli occhi, volendo trovare solo delle bacche grosse. Invece un consiglio che volevo dare è degustare le uve più piccole, e in particolar modo le uve senza semi, che naturalmente sono le più piccole e sono le più profumate, hanno dei sapori particolari che evidentemente il consumatore attuale non riesce più a percepirle, e questo è un grosso guaio. Bene, grazie a Pie. Sentiamo Gino dalla provincia di Genova. Buongiorno Gino. Buongiorno. Senta, io a proposito di sapori volevo portare solo una mia esperienza, non coltivo, non sono addentro a queste questioni. Io ho ereditato dai genitori del terreno, dove i miei genitori prendevano, per esempio, c'erano due piante di mele che io non conosco neanche la qualità, dove quando si raccoglievano queste mele le mettevano in cantina, fuori dall'aia si sentiva un profumo tutto l'inverno, finché c'erano le mele, un profumo di mele favoloso. Io ho continuato a coltivare, cioè a mantenere queste piante di mele, finché di anno in anno, sempre più attaccati dai parassiti, queste mele diventavano, sì, avevano il profumo, ma erano immangiabili, immagini tutte le marce dentro. Sono andato da quelli che se ne intendono e mi hanno detto bisogna darci questi fitofarmaci. Bene, le mele, concludendo, sono bianche, erano bianche, adesso non le prendo neanche più, bianche, belle, colorate, non avevano nessun profumo, quasi nessun sapore, e quindi ho lasciato perdere. Grazie a Gino della provincia di Genova per la sua testimonianza. Ora abbiamo con noi Andrea Ghiselli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Buongiorno Ghiselli. Buongiorno. Volevo chiedere questo, che è un po' un interrogativo, credo, di molti. Un tempo si rispettava la stagionalità pensando anche che il consumo di quegli alimenti era adatto a quella stagione. Ecco, diciamo ora che ci sono appunto certi cibi tutto l'anno, cioè questo sussiste ancora, sussiste meno, era un luogo comune, era una storia metropolitana che appunto alle stagioni coincidono anche bisogni nutritivi nostri? Era un luogo comune sostenuto principalmente da due fatti, che il primo fatto è che la frutta e la verdura estiva conteneva molta più acqua e più caroteni e quindi poteva aiutare in una esposizione alla luce del sole, al caldo eccetera, e la frutta invernale, gli agrumi in particolar modo, contenevano tanta vitamina C e quindi potevano aiutare a resistere alle infezioni. Tranne queste due cose non ci sono particolari esigenze per cui un frutto vada meglio per l'inverno, per l'estate o per l'autunno, insomma. Anzi, il fatto di avere tantissima frutta e di verdura a disposizione tutto l'anno non fa altro che aumentare le possibilità di scelta e togliere la scusa di quelli che dicono questo non mi piace, non lo mangio. Ecco, nei mesi freddi si è sempre detto che gli ortaggi compatti come i cavoli, le verze e i broccoli riscaldano e quindi diciamo che portano dei vantaggi al corpo, anche questa diciamo è un luogo comune. No, riscaldano perché vengono fatti in particolare modo come il minestrone, per cui insomma danno particolare calore perché si produce calore, ma certamente non è per il fatto che apportino tante di quelle calorie che poi si trasformano in calore, insomma. Ecco, ci sono molti radioascoltatori che ci fanno notare che appunto oggi l'aspettativa di vita è aumentata del doppio rispetto a quella, dice un radioascoltatore da Pordenone, da un secolo fa, quando la stagionalità era l'unica alternativa. Bene, anche questo è opinabile, comunque lo vedremo. Bene, abbiamo anche con noi l'amministratore delegato della filiera ortofrutticola romagnola, quella che gestisce il mercato più importante, uno dei più importanti d'Italia, ortofrutticola all'ingrosso di Cesena. Buongiorno Scarpellini. Buongiorno agli ascoltatori anche. Senta, i prezzi sono stati così scombussolati, rivoluzionati da quando da tutto il mondo arriva ortofrutta, oppure sono rimasti stabili? Ma in senso generale dobbiamo dire che il discorso della globalizzazione ha creato un po' di diversità. Noi qui a Cesena attualmente, dove operano circa 500 operatori, abbiamo attualmente la produzione locale, soprattutto di ortaggi, fagiolini, carte, zucchine, cipolle, bietole, che grosso modo, siccome rappresentano freschezza e tipicità locale e quindi una produzione altamente qualitativa e quindi modalità di presentazione al consumatore anche in modo diverso, rivolto maggiormente verso i ragazzi, perché frutta e verdura hanno ossidanti e quindi sono una prevenzione a livello anche della salute, specialmente verso gli ammalati di cuore e di tumore. Ecco, noi spingiamo molto sul discorso della tipicità e della freschezza. I prezzi, come chiedeva lei, grosso modo sono un po' differenti e in senso generale contro quelli che provengono da fuori, e qui provengono un po' dall'Italia, specialmente il discorso delle fragole, il discorso delle arance, mentre invece quelle che vengono come le clementine adesso dalla Spagna o l'uva che proviene dalla Sicilia e dalle Puglie, ecco, queste hanno sicuramente un servizio in più, chiamiamolo così, dal punto di vista logistico, e quindi si differenziano di qualche centesimo, però grosso modo in linea generale i prezzi sono quasi simili. Bene, grazie a Domenico Scarpellini, la ringrazio di questo suo intervento che ha chiarito molti punti dal punto di vista del prezzo. Sentiamo un radioascoltatore, Gennaro da Napoli. Buongiorno Gennaro. Buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione. Dica. Niente, io ho chiamato perché io lavoro per un'azienda conserviera campana e volevo portare il mio contributo riguardo alla differenza tra i prodotti coltivati in campo aperto e quelli lì in terra. I prodotti che noi troviamo sugli scaffali dei supermercati durante tutto l'anno sono pomodori coltivati in serre con delle stufe, con delle vie intensive per avere sempre il prodotto. Quelli che invece vengono utilizzati per le conserve vengono piantati ancora in campo aperto in primavera e poi vengono raccolti fine luglio e inizio agosto, ed è un prodotto eccezionale. Noi lo troviamo anche in quel periodo dai fruttivendoli, nei negozi specializzati. Poi però durante il resto dell'anno, perché c'è una grossa richiesta, purtroppo il prodotto è diverso. Ma se lei pensa che ti arriva a pagare un quarto 250 grammi di pomodorino datterino, addirittura 2,50 euro sullo scaffale di un ipermercato, finché c'è la gente che li compra si continueranno a produrre, e anche se non sanno di niente, li comprano lo stesso e continuano la filiera. Mentre il prodotto che viene coltivato in campo aperto e poi raccolto d'estate, quello è il vero pomodorino e il vero pomodoro. E sono quelli che lei trova nelle conserve. Adesso si è arrivato al paradosso che il prodotto conservato in scatola è migliore, superiore di quello che lei compra fresco in supermercato. Bene, io la ringrazio di questo, però voglio aggiungere a quello che lei sta dicendo molti SMS. Credo che sia così la caratteristica oggi di quello che mi sta arrivando. Ma la frutta non sa di niente. In tutta l'ortofrutta il sapore comune è quello della patata. Mi sembra un refrain che questo, cioè, viene così riscontrato dai radioascoltatori, ma devo dire che lo riscontro anch'io molto, ma molto spesso, soprattutto sulla frutta. Bene, io ringrazio Andrea Ghiselli, grazie Ghiselli del suo intervento. Sento Domenico dalla provincia di Arezzo, un radioascoltatore. Buongiorno. La trasmissione che sta facendo mi piace, questa mi ha pienato e mi ha invitato a chiamarla. Dunque, io sono di Cortona, Val di Chiana, e sono agricoltore. Vorrei parlare a proposito di quanto per quello che riguarda la coltivazione dei pomodori, no? Guarda, io le do 30 secondi, però mi dica. Ecco, i pomodori in Val di Chiana sono comparsi, sono 5-6 anni, ed era una cultura ad alto reddito produttivo, ad alto reddito, insomma, che dava soddisfazione a coloro che la praticavano. Con l'arrivo dei polpi che vengono un pochino da tutto il mondo, il prezzo dei pomodori è letteralmente crollato, come ben saprete, no? È una coltivazione che non rende più quanto dovrebbe dare a coloro i quali fanno questi tipi di investimenti, perché è un investimento notevole, oneroso. Non scendo sui dettagli perché mi ha dato poco tempo. Sì. Ecco, quest'anno, ad esempio, hanno tribolato i produttori chissà quanto per poter collocare il prodotto, che è un prodotto meraviglioso quello che viene coltivato nella nostra zona, e coloro i quali l'hanno fatto sicuramente non hanno guadagnato tutt'altro. Bene. E sono stati bravi, dico, se sono riusciti a collocarlo. Non vorrei, no, che succedesse, che stia succedendo quanto è successo qui sempre nella nostra zona, quello che è successo con le bietole, ove uno zuccherificio che operava e dava un minimo di reddito alle aziende agricole perché producevamo, è stato chiuso. Bene, abbiamo con noi Michele Scrinzi, che è direttore generale della cooperativa Sant'Orsola per Geneva Arsugana, che è sicuramente notissimo per la produzione tutto l'anno dei piccoli frutti, e a lui voglio chiedere se mancando quindi la stagionalità sui piccoli frutti, quindi essendo prodotti tutto l'anno, cosa cambia? Cambiano i contenuti, cambia il sapore, cambiano i profumi, oppure anche questo, come ho detto prima, è una leggenda metropolitana? Buongiorno innanzitutto e grazie per questo invito a dire due cose sui piccoli frutti. ma le varietà di piccoli frutti coltivate a livello mondiale non sono moltissime, quindi direi che nonostante il cambio di stagione nel proseguire dell'anno, le caratteristiche organolettiche, estetiche di questi prodotti sono sostanzialmente costanti nel tempo, insomma, quindi non c'è una grande variazione a seconda del periodo dell'anno, rimangono sostanzialmente costanti. Quindi diciamo grosse differenze non ci sono. Ecco, volevo sapere, ma sì, arrivano molti piccoli frutti dall'estero? Sì, teniamo conto di una cosa, distinguiamo poi il consumo di questi prodotti a livello europeo e poi quello italiano. A livello europeo se ne consumano molti di più, in Italia c'è un consumo piuttosto ridotto. Tuttavia in Italia in parte e molto in Europa c'è nel periodo invernale per l'Europa un buon afflusso di piccoli frutti, soprattutto la Sud America, quindi c'è arrivo di merce in controstagione dall'emisfero sud. In Italia meno che in Europa, ripeto, per la differenza di consumi. Grazie a Scrinzi per questo suo intervento. Sentiamo Radio Ascoltatore Mauro da Bari, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Paolini, la ringrazio per il contributo che riesce a farmi dare in questa trasmissione. Innanzitutto complimenti, è veramente una trasmissione a 360 gradi. Io personalmente sono un imprenditore, sono un pugliese, produco imballaggi in legno per ortofrutta. Sì, andiamo alla domanda perché ho poco tempo. La domanda è questa, più una domanda è una riflessione. In questo momento prevalgono le lobby all'interno dell'ortofrutta. Purtroppo si sta perdendo la telefonata, mi spiace, se faceva meno preambolo forse andavamo subito al succo, era meglio. Bene, sentiamo, bene, abbiamo con noi Gian Domenico Consalvo, che è componente della Giunta Nazionale Esecutiva di Confagricoltura. A lui vorrei chiedere se tutti i radioascoltatori scrivono la frutta non ha più sapore, altri si lamentano appunto che sicuramente costa troppo, quindi vorrei chiedere, Consalvo, cosa ne pensa la Confagricoltura? Allora, prima cosa, buongiorno a tutti voi, mi complimento per la trasmissione che sicuramente è molto utile per fare un po' di chiarezza e un po' di educazione alimentare, che forse è quello in cui tutti quanti abbiamo bisogno. Da questo punto di vista volevo solo spiegarvi che l'Italia in particolare ha una grande opportunità per i consumatori, perché tutta Italia da nord a sud permette di consumare e quindi di produrre, in particolare facciamo l'esempio delle pesche, da marzo fino a ottobre c'è sicuramente un prodotto italiano. Questa è una cosa che forse non tutti i consumatori sanno e invece è molto utile saperlo. Per il discorso invece sapore, non dimentichiamoci che le esigenze della grande distribuzione e di tutta la filiera hanno bisogno di un prodotto molto poco maturo. Se probabilmente riuscissimo invece a far raccogliere e a consumare un prodotto molto più maturo, probabilmente il gusto ritornerebbe tranquillamente nel palato dei consumatori. Quindi lei dice è un'esigenza del consumatore questa, o è un'esigenza del produttore? È un'esigenza di tutta la filiera per garantire al consumatore tutti i giorni il prodotto sul banco. Certo. Non dimentichiamoci che se vogliamo consumare la pesca a marzo, ad aprile o a maggio, nei primissimi mesi, quindi una stagione che inizia a maggio, la dobbiamo far partire dalla Sicilia, la dobbiamo far arrivare sul banco del consumatore a Milano in 24 ore. Quindi il prodotto necessariamente deve essere un poco più, tra virgolette, acerbo per essere consumato. Sì, e quindi dovrebbe essere, cioè, ci dovrebbe essere più coscienza del consumatore. Bisognerebbe fare forse molta più informazione. Io leggo da un radioascoltatore che mi dice che in Francia la gente trova nelle piazzole degli autogrilli cartelli con l'elenco di frutta e verdura con il loro periodo stagionale. Trattasi di educazione civica, penso anch'io. Vedo che ci sono calendari in uscita, mi sembra dalla regione Lazio addirittura un calendario appunto con la stagionalità dei frutti e della verdura. Speriamo bene quindi. Ma sentiamo un altro radioascoltatore, Guido da Ferrara, rimanga con noi Consalvo. Guido da Ferrara, buongiorno. Buongiorno a lei. Io concordo con quello che ha appena detto il rappresentante di Confagricoltura, io sono agricoltore e quindi anche socio di Confagricoltura, sono anche un operatore del settore alimentare e il mio punto di vista è che il consumatore chiede frutta bella, il mercato la chiede a buon mercato, scusi, confuso, ma nessuno la chiede buona, di conseguenza i produttori dimenticano questo aspetto perché non è premiante. Bene, quindi vediamo cerchiamo di capire, la colpa è buona parte dei consumatori. Io non sono molto d'accordo su questo, comunque ognuno ha la propria. Devo ricordare prima di chiudere che è in uscita il mensile I Viaggi del Sole con dei weekend enogastronomici. Ecco, credo che chi volesse andare appunto a ricercare dei prodotti in questo momento che sono di stagione, qui dentro ci sono moltissimi weekend segnalati, tra cui ovviamente quello del tartufo in questo giorni. Ho ancora 30 secondi, sentiamo Davide dalla provincia di Siracusa, ho 30 secondi Davide, mi spiace. Sì, velocissimo, le volevo dire questo, io sono un medico, lavoro in pronto soccorso e vediamo noi frequentissimamente delle sindromi allergiche, orticaria, asma, eccetera, eccetera. In un primo caso mi accorsi che la persona aveva mangiato della frutta fuori stagione. Successivamente, indagando nelle varie persone che mi capitavano ovviamente negli anni, non nel giro di poco tempo, mi sono accorto che spesso le persone che senza aver cambiato niente di nuovo e mangiando frutta fuori stagione avevano delle reazioni allergiche a quel tipo di frutta. Non ho mai capito se fossero conservanti o cos'altro, ma accapita spesso, almeno non c'è niente di scientifico, è la mia esperienza, è solo esperienza personale. Grazie Davide, bene, abbiamo chiuso questo viaggio, ora spero di andare a mangiare, frutta che abbia qualche sapore e verdura pure, di solito capita sempre più di rado. Bene, io ringrazio in regia Peter Bescapè, in redazione Anita Panizza e Giorgio De Luca. Buona giornata dal vostro gastronauta.